Ogni farmaco o vaccino contiene tanti brevetti, può contenere decine e decine di brevetti. Nel caso dei vaccini per il Covid, alcuni di questi brevetti risalgono a diversi anni prima e sono ad esempio brevetti che danno l'accesso all'utilizzo, per esempio, della metodologia dell'mRNA. Che cosa accade? Che c'era un brevetto sull'mRNA del 2002 che riguardava Pfizer e Moderna e che sarebbe scaduto nel 2022. L'ufficio brevetti ha invece prorogato la durata di questo brevetto per altri 5 anni fino al 2027. Questo è un esempio. Abbiamo trovato un altro brevetto che invece riguarda AstraZeneca. Questo era del 2012, sarebbe scaduto nel 2032, è stato prorogato di 3 anni e mezzo fino al 2036. Abbiamo scoperto queste cose insieme al professor Lorenzo Cassi, che è un professore di economia all'Università Parigi 1, la Sorbona. Allora, per spiegare l'importanza di questa vicenda faccio un esempio. Pensiamo di essere sull'autostrada che va da Milano a Roma. Percorrendo l'autostrada per avvicinarsi a Roma bisogna passare attraverso diversi caselli, quindi quello di Lodi, di Piacenza, poi di Bologna, poi di Firenze e via dicendo. I caselli, se sono chiusi, uno deve fermarsi, non può proseguire. Ecco, i caselli sono come i brevetti. L'aver prorogato il brevetto del 2002 significa aver bloccato le entrate in autostrada, altrimenti uno potrebbe entrare, attraversare i vari caselli, che sono i brevetti ormai scaduti, ed avvicinarsi sempre di più. Non può arrivare fino a Roma perché ci sono gli ultimi brevetti che durano ancora, però arriva ad esempio fino a Firenze e poi può trovare una strada alternativa per arrivare a Roma. In questo modo invece è stata bloccata l'entrata in autostrada ed è una decisione estremamente grave, sia sul piano politico, perché avviene nel momento in cui migliaia, centinaia di migliaia di associazioni in tutto il mondo si battono per una sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini per far arrivare i vaccini in tutto il mondo. Siamo in un momento in cui oltre 100 ONG chiedono una moratoria sui brevetti, lo chiedono per premi Nobel, ex presidenti o capi di Stato, l'ha chiesto Papa Francesco. E che cosa succede in Italia? Che invece vengono prorogati di 5 anni alcuni brevetti. Quali sono le conseguenze? Ce ne sono diverse. La prima, è ovvio che il brevetto permette al possessore del brevetto di muoversi in una logica monopolistica e quindi di stabilire sostanzialmente i costi. Secondo, significa che in Italia la ricerca viene ulteriormente bloccata perché non si può prendere quella strada che è bloccata da un brevetto, in questo caso sull'mRNA. Terza questione molto grave: qualora un domani, per esempio in Francia, per esempio in Sudafrica, venga prodotto o un vaccino per il Covid o un altro farmaco utilizzando quel brevetto, l'Italia non solo non lo può produrre, ma non lo può neanche acquistare e importare. Però insomma il MISE ha provato a sostenere che questa proroga è una proroga così automatica a livello europeo, però la Francia ad esempio non l'ha prorogato. Ma il MISE ha fatto delle figuracce tremende quel giorno, perché prima ha sostenuto che loro si occupavano solo dei brevetti industriali, ha scritto a Radio Popolare, e che questo riguardava l'AIFA. Allora noi abbiamo dimostrato che riguardava il MISE e qual era l'ufficio che ha preso la decisione e chi era il funzionario che coordinava questo ufficio e che ha coordinato questa discussione, quindi la scelta. A quel punto hanno detto che era una scelta dovuta, che è seguita da tutti, pressoché tutti i paesi europei. A noi risulta che finora siano andati in questa direzione l'Italia, la Germania e la Svizzera. La Francia ha risposto di no, in Spagna la pratica risulta sospesa, in Inghilterra non si sono ancora pronunciati dopo un anno dalla presentazione. Nel caso di Pfizer e Moderna, da noi hanno deciso in 26 giorni. Il 13 febbraio del 21 Giorgetti diventa ministro, il 22 viene presentata la domanda di proroga, il 22 febbraio, e il 18 marzo viene accettata la proroga. Ecco, allora di fronte a questi tempi neanche dire che si sono messi a studiare le pratiche. Io penso, ritengo che sia stata invece una decisione politica, io penso che sia l'ennesima dimostrazione della subalternità dei nostri governi agli interessi di Big Pharma, di aziende comprendere nel caso della Pfizer che nel 2020 hanno avuto dei ricavi per 83 miliardi quando l'anno precedente avevano avuto ricavi per 42 miliardi, per cui hanno raddoppiato i ricavi. Ecco, andare a prorogare ulteriormente dei brevetti è una cosa veramente inaccettabile. Se poi aggiungiamo che 6 giorni dopo la proroga della Pfizer e qualche mese prima che venisse poi decisa la proroga per AstraZeneca, il Parlamento ha votato una mozione che invitava il governo ad appoggiare la moratoria sui brevetti, vediamo che il governo ha fatto il contrario di quello che ha suggerito il Parlamento, cioè ha continuato a appoggiare la posizione della Commissione Europea in sostegno dei brevetti contro la moratoria e non ha neanche comunicato al Parlamento, almeno a noi non risulta che l'abbia comunicato, il fatto che ha prorogato addirittura dei brevetti, oltre i 20 anni canonici stabiliti dagli accordi sulla proprietà intellettuale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.